Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che torna a parlare di censura, censura sui fumetti, un argomento che abbiamo approfondito in un'iniziativa che abbiamo organizzato come CRAP, come Radio Città Fujiko a Villa Paradiso all'inizio della stagione, proprio ad ottobre, e che ha avuto a discutere sulla censura un parterre de roi. Ricordo Luigi Bona del UO di Milano, con Marco Fincardi che è uno storico, Elettra Stambuli, più che conosciuto critica di fumetti, Giuseppe Palumbo, autore conclamato delle strips, e Giuseppe Chiarello, che è dello studio d'arte, che in qualche modo ha approfondito il tema molto vicino al Pioniere di Vinicio Berti. Dunque un complesso di argomentazioni che hanno fatto luce su una censura strisciante, a volte invisibile, a volte conclamata, comunque sempre molto negativa per chi produce, chi vuole creare. Tutto questo dibattito introdotto dal critico di fumetti nonché cinematografico Piero Di Domenico, che in qualche modo ha riassunto molti dei temi che poi sentiremo anche nelle puntate prossime. A lui, dopo lo stacchetto musicale, la parola. La riflessione, ovviamente la riflessione sul tema della censura è una riflessione che attraversa il tempo e lo spazio. Purtroppo il tema della censura naturalmente è un tema quasi inevitabile e ineludibile, che poi può essere sollecitato naturalmente da tanti stimoli legati anche a tempi diversi, l'affermarsi del politicamente corretto, la grande questione della cancel culture di questi ultimi anni. E il fumetto è sicuramente uno specchio che ha riflesso nel corso dei decenni questo rapporto così difficile, così complesso. Naturalmente c'è una storia che non ha confini, perché la censura non ha confini né temporali né spaziali, quindi abbiamo ovviamente degli esempi, tantissimi esempi in Italia, già durante ovviamente il fascismo, anche non solo con una censura che riguardava e toccava temi e personaggi, ma toccava anche il linguaggio, che è un tema che a me interessa particolarmente, cioè il rapporto ad esempio fra immagine e testo, che non doveva superare, che era quasi regolato con dei parametri proporzionali, perché la narrazione, il racconto doveva rispondere a certi criteri, a certi crismi. E poi naturalmente però c'erano anche tante altre questioni, tanti altri personaggi, tanti altri motivi legati alla prospettiva autarchica. Pensiamo al liofilizzato, al succedaneo di Topolino, che appunto venne proposto durante il fascismo, oppure a un fumetto come Pantera Bionda, che è un fumetto di un personaggio femminile, una Tarzan femminile, che aveva un grandissimo successo popolare e che invece appunto dopo una serie travagliata, diciamo, dal punto di vista legale, fu costretta a indossare al posto del bikini una gonna molto lunga, molto più castigata, e in qualche modo poi da qui iniziò una parabola discendente anche di tutto il personaggio. Ma pensiamo anche negli anni, non solo durante il fascismo, no? Anche negli anni successivi, alcune date: nel 1950 nasce la UISPER, l'Unione Italiana Stampa Periodica Educativa per Ragazzi, che crea addirittura un marchio di garanzia nel 1962, una sorta di bollino doc sulle copertine delle principali riviste a fumetti, il marchio Garanzia Morale, patrocinato da questa associazione che distingueva appunto tra i fumetti buoni e quelli cattivi. Naturalmente poi i fumetti buoni di solito coincidono con quelli che sono molto vicini ai valori e ai temi cari a chi in quel momento ha in mano le leve del potere. Però non solo in Italia, non è che abbiamo l'esclusiva della censura, ci sono casi veramente in tutto il mondo. Gli Stati Uniti, che naturalmente sono una delle grandi padre del fumetto, la Germania, dove in un certo periodo di tempo venne proibito il balloon, proprio la forma balloon, no? Veniva prescritta la didascalia. Negli Stati Uniti mi sono segnato questa frase di Frederick Wertham, che era lo psichiatra di origine tedesca, nato a Monaco e poi carriera accademica negli Stati Uniti, che trovò nelle pubblicazioni del fumetto una sorta di capro espiatorio su cui far convergere un po' tutte le colpe di un certo disagio, di un certo malessere, di una certa inquietudine anche giovanile che cominciava a serpeggiare dopo gli anni 50 con il suo famoso libro Seduction of the Innocent, che portò alla creazione di un altro sorta di marchio o comunque di codice, il Comics Code, che era un codice appunto di regolamentazione dei fumetti. Quindi in epoca maccartista naturalmente non c'era solo, come dire, un intervento a gamba tesa sulla grande industria del cinema, ma anche sull'industria molto popolare del fumetto, e quindi con questo codice che in qualche modo provocò non solo dei casi di censura ma anche di autocensura, cioè quanto poi la censura agisca anche da strumento di pressione, non solo quando è diretta ma anche per il clima che contribuisce a creare, cioè per come mina in qualche modo anche la libertà degli autori e delle autrici. E questo è un altro aspetto fondamentale. Tante cose, siamo tutti intellettuali di paese, studiare ti regalerà il successo e una laurea vale più del tuo buon senso. Ci hanno rivelato i numeri vincenti e venduto l'anima ai serpenti, siamo prigionieri col contratto in mano, per la firma siamo inchiostro col veleno. Anche esprimere una semplice opinione, siamo docili pedine, schiavi di una posizione, anestesia da posto fisso, futuro organizzato, la verità è che ci hanno ipnotizzato. Tutti zitti, tengo stretti i miei doveri mentre ho perso tutti quanti i miei diritti. Tutti zitti, ci costringono a sorridere per non farci capire che siamo stati già sconfitti. Ci hanno insegnato tante cose che al guinzaglio in fondo non si sta poi male. Non c'è il rischio di sbagliare, c'è il rischio di rispondere alle offese, è vietato anche pretendere rispetto, viviamo dentro una sala d'aspetto e sono rimasta sola a fare la rivoluzione, chiusa dentro questa stupida prigione. Tutti zitti, tutti zitti, tengo stretti i miei doveri mentre ho perso tutti quanti i miei diritti. Ci costringono a sorridere per non farci capire che siamo stati già sconfitti. Noi non siamo schiavi di nessuno e anche mentre vado a fondo voglio difendere i miei sogni uno ad uno. Tutti zitti, tutti zitti, tengo stretti i miei doveri mentre ho perso tutti quanti i miei diritti. Tutti zitti, ci costringono a sorridere per non farci capire. E siamo zitti, tutti zitti.

salivano gli animali. Lo evide nel cielo un grosso nuvolone e goccia dopo goccia a piovere cominciò. Non posso più aspettare, l'arca chiuderò. Nuovo anno, riprendiamo la rubrica Donne e Fumetti, lo facciamo come si conviene quando durante il passaggio con il nuovo anno siamo portati a chiederci che cosa accadrà, fare auspici per salute, benessere e successo. Ebbene, io lo farò con un regalo avuto da amici francesi. Ho qui le carte dei tarocchi di Valentina disegnate da Guido Crepax nel 69, in piena produzione appunto di questo personaggio, nella sua lunga carriera eclettica e diversificata. Bene, sono 78 carte di arcani maggiori e arcani minori, ai quali chiedere, evidentemente grandi temi legati a questo personaggio: l'amore, le relazioni, la sensualità, l'erotismo, il sesso. Ebbene, Valentina, parliamone, è una delle donne più celebrate al mondo dei fumetti, la sola capace di brillare di luce propria senza protagonisti maschili. Ecco perché non solo è apprezzata dagli uomini, ma anche dalle donne. È il simbolo dell'indipendenza, dell'attrazione, della seduzione. È un personaggio simbolico soprattutto degli anni 60 e 70, ma che continuerà a riflettere con la sua particolarità e le sue tendenze nei decenni che seguiranno. Il suo stile innovatore, d'avanguardia, la rende più contemporanea che mai. Ed è un personaggio complesso che rigurgita di sfaccettature, di contraddizioni diverse. Questa è la chiave del suo successo, al punto che tutte noi donne ci siamo sempre un po' identificate in qualche modo. Crepax si preoccuperà soprattutto di costruire un mondo credibile intorno a lei, la data di nascita, la carta d'identità, addirittura le relazioni amorose, il lavoro, il figlio, la macchina, i vestiti. Insomma, sono tutti oggetti, dettagli, anche ripresi da citazioni, dai sogni, dal cinema, perché questo personaggio è ispirato, lo sappiamo, a Louise Brooke, l'attrice americana del cinema muto negli anni 30. Ecco, il sogno gioca un ruolo importantissimo nel mondo di Valentino, di Valentina, le dà una profondità nel suo personaggio, avvicina la sua psicologia a quella di una vera donna. E noi sappiamo che lui, ci sono tra l'altro in queste bellissime 78 carte altri personaggi femminili creati da Crepax: Bianca, Anita, Belinda, Becky Lee, Giulietta, Francesca. Ma sappiamo che nell'eclettismo della carriera varia e diversificata di Crepax, lui ha avuto anche questa tendenza un po' alla avvicinarsi al mondo dell'orrore, del magico, delle fate, è stato attratto anche da personaggi ambigui, una passione che si è manifestata anche nei grandi cicli dei suoi album della giovinezza, i Sotterranei, le fiabe robotiche, Baba Yaga, che poi ha ispirato un film. Ecco, a qui l'ispirazione a questi arcani maggiori e minori che non vedo l'ora di giocare, e magari chiedendo che cosa riserverà il 2024 per me, per le altre donne, per le mie amiche, per tutto il mondo. E, bene, mi immergo in questi meravigliosi disegni e che riflettono la gioia, la passione, la distruzione, la trasformazione, la forza, la solitudine, che vi lascio scoprire perché sono davvero indescrivibili, disegni meravigliosi. Buon 2024 e buona lettura. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima. Uh-huh.